Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Con queste note della primavera di Vivaldi, tutti l'abbiamo riconosciuta, iniziamo l'incontro di oggi con l'ingegner Enzo Gatta, presidente dell'Associazione Italiana Nucleare. Buon pomeriggio, ingegner Gatta. Buon pomeriggio anche a lei. Beh, la prima domanda che verrebbe spontanea è, poi torniamo su Vivaldi, ma c'è ancora un'Associazione Italiana Nucleare? Assolutamente sì, è sempre più presente. E l'associazione intende continuare a svolgere il proprio ruolo di punto di riferimento per le tecnologie nucleari in Italia. Riprendiamo un po' dall'inizio, come si usa in questa trasmissione, la primavera di Vivaldi. Ha scelto questo motivo più per la primavera, più per Vivaldi, perché lei è un milanese di nascita e forse purtroppo possiamo dirlo romano d'adozione, però Venezia, come ricorda un po' Vivaldi, è qualcosa di diverso sia da Milano sia da Roma. Contesto il purtroppo no, romano d'adozione. Questo a beneficio degli ascoltatori romani. Assolutamente. Ma premesso che non sono un esperto conoscitore di musica classica, ne voglio spacciarmi quale tale, però la primavera di Vivaldi mi ha un po' seguito nel tempo della mia evoluzione professionale come un messaggio di positivismo, di rinnovamento, di emozione in questo senso, quindi per questo che diciamo mi sento particolarmente vicino a questo motivo. Ecco, mi ricorda quel film Oltre il giardino, in cui appunto questo giardiniere racconta che la vita poi in fondo deve basarsi sulle stagioni. C'è un inverno, ma dopo l'inverno viene sicuramente la primavera, poi viene sicuramente anche l'estate e l'autunno, ma poi comunque ritorna questo ciclo. Quindi c'è la prospettiva comunque di una primavera. Adesso siamo un po' in inverno in questo paese. Purtroppo sì, siamo un po' in inverno, però ecco, non è un mal comune mezzo gaudio, però in inverno siamo un po' dappertutto in Europa e anche in molte parti del mondo. Ma direi che le premesse comunque perché diciamo ci possa essere un'estate, una ripresa dal punto di vista generale, chiaramente io sono particolarmente vicino al mondo dell'energia, ma dal punto di vista diciamo della crescita forse queste premesse ci sono e chiaro bisogna saperle diciamo sfruttare e realizzare. Ecco, quello dell'energia è uno dei grandi temi appunto che condizionano in negativo ma anche in positivo, perché l'energia offre poi tutte le grandi potenzialità che ha la civiltà moderna, appunto, che condizionano poi la crescita anche sociale ed economica. Lei si è occupato dell'energia praticamente da sempre, laureato al Politecnico di Milano in quest'ambito? In energia elettrotecnica, sì, assolutamente. In anni non sospetti. In anni non sospetti, non nucleare, energia elettrotecnica. All'epoca nucleare ancora sì, se ne parlava ovviamente, ma non era diciamo argomento né tabù né tantomeno di evidenza. Sì, diciamo che la mia militanza nel settore dell'energia ormai diciamo raggiunge circa 45 anni, oltre ovviamente il periodo di laurea, quindi se conteggio anche il periodo di laurea arriviamo a 50. Questo ne sono assolutamente fiero e contento perché ho avuto questa possibilità diciamo di seguire almeno per quanto riguarda l'Italia, ma anche seguendo diciamo, il mondo internazionale all'estero, quello che diciamo, è stata l'evoluzione epocale in questo settore che è avvenuto, direi come elemento particolarmente significativo i processi di liberalizzazione che hanno coinvolto molti paesi e noi in Italia in particolare, quindi ho avuto la fortuna di seguire proprio l'evoluzione dal monopolio ai mercati liberi, all'implementazione della direttiva sul mercato unico europeo, quindi passando anche diciamo come esperienza professionale in più ambienti, quindi sia nel pubblico che nel privato. E questo direi che è un qualcosa di cui sono veramente molto fiero e contento. Ecco, l'Italia ha fatto un grande processo di liberalizzazione, passando proprio dal monopolio, dall'Enel statale, ente statale, a una diversificazione sia tra i produttori, sia tra i fornitori di energia. È una strada che comunque ha pagato dal punto di vista del consumatore? Ma io Io ne sono convinto e rispondo positivamente alla sua domanda, anche se bisogna fare poi dei distinguo tra quelli che sono i consumatori, diciamo, industriali e quelli che sono i consumatori residenziali, dove i processi hanno avuto impatti positivi diversi e ancora non completi. Per quanto riguarda il settore industriale, assolutamente sì, diciamo, ci sono stati vantaggi da questo processo di liberalizzazione, di nascita della concorrenza per un prodotto servizio che è molto particolare, perché non è una commodity tangibile, e quindi anche dal punto di vista, diciamo, dell'organizzazione dei mercati, chiaramente nel settore dell'energia elettrica sono dovuti fare dei salti dal punto di vista organizzativo e concettuale molto più importanti che in altre liberalizzazioni di altri servizi. E per i residenziali forse ci sono ancora dei margini di vantaggio da evidenziare per quanto riguarda la concorrenza, però anche nel settore residenziale. È chiaro che poi all'esterno le condizioni al contorno in questi anni sono diventate sempre più difficili, vuoi per i vari aumenti dei costi della materia prima, certo, in particolare del gas, e vuoi per l'impatto recentemente dei costi per sostegno al correttissimo, giustissimo sviluppo delle fonti rinnovabili, che però, diciamo, poi si riflette di fatto su un costo dell'acquisto di energia per i consumatori sia industriali che residenziali. Ecco, l'Italia comunque soffre di una larga parte della dipendenza molto ampia dalle fonti fossili, dal gas e dal petrolio. Rispetto ad altri paesi c'è una molto limitata diversificazione delle fonti, anche queste fonti rinnovabili sono ancora all'inizio, mi sembra, come peso sul fabbisogno complessivo del paese. Questo è assolutamente corretto, le fonti rinnovabili, ripeto, è assolutamente giusto che si sviluppino e che possano portare un loro contributo alla copertura del fabbisogno. Resta il fatto che in valore assoluto le quantità di energia producibili con le fonti rinnovabili sono, anche nelle ipotesi più ottimistiche, restano comunque sempre, diciamo, marginali. Cioè, l'obiettivo del 20% entro il 2020 è realistico? Sì, diciamo che è realistico per quanto riguarda, stiamo parlando dell'Italia, ammesso e non concesso che in particolare alcune delle tecnologie delle fonti rinnovabili poi possano essere realmente realizzabili. Mi riferisco per esempio al contributo delle biomasse, al di là di quello che può avvenire può essere portato dall'eolico rispettivamente dal fotovoltaico. È sicuramente un obiettivo molto sfidante, ci sono secondo me le premesse per poterlo raggiungere. Quello che diciamo il sistema chiede, gli stakeholders del sistema chiedono, è che ci sia però una stabilità dal punto di vista regolatorio generale, che non vengano altri, diciamo, cambiamenti in corso d'opera di rotta sulla politica. Anche perché le politiche di risparmio hanno portato dei tagli anche nelle strategie sulle... Ma lei sta toccando un altro punto che è di grandissima attualità non solo in Italia ma, diciamo, in Europa, e sarà oggetto poi appunto di una emananda direttiva sull'efficienza energetica. E quello è un settore in cui ci può essere anche un risultato assolutamente, diciamo, positivo in termini di minor consumo di energia primaria, non tanto sull'energia elettrica ma in senso generale. Mi riferisco per esempio a tutto ciò che attiene all'efficienza, diciamo, energetica negli stabili, sia quelli, certo, pubblici che quelli privati. Tra l'altro può mettere anche in moto un meccanismo di imprenditoria importante. Incontri. Di nuovo buon pomeriggio ai nostri ascoltatori, ancora sulle note della primavera di Vivaldi. Riprendiamo il nostro colloquio con l'ingegnere Enzo Gatta, presidente dell'Associazione Italiana Nucleare. Abbiamo parlato nella prima parte dei temi dell'energia, temi importanti, fondamentali per la crescita economica dell'Italia come degli altri paesi. In questa fase particolarmente difficile. L'Italia ha fatto dei passi in avanti per le liberalizzazioni, passi in avanti che hanno portato anche a un miglioramento dell'efficienza, ma i passi in avanti possono sempre essere fatti, la strategia su questo fronte non può avere fine. Io andrei però sul tema proprio centrale per cui Enzo Gatta si è impegnato. Da quanto tempo si è impegnato sul nucleare, Enzo Gatta? Circa 2 anni. Due anni. Ho avuto questo cadeau. Ecco, io all'inizio gli ho chiesto, ma esiste ancora? Perché parlare di nucleare adesso, dopo l'incidente di Fukushima, dopo il referendum in Italia, sembra che ormai sia un'ipotesi accantonata tra le possibilità di sviluppo energetico. Invece ne parliamo ancora? Ma innanzitutto vorrei ricordare che c'è un aspetto industriale che è assolutamente reale e che sarà da sviluppare, che è tutto ciò che attiene il progetto del deposito delle scorie, il parco tecnologico. Come sappiamo dalle modifiche del sistema normativo sono intervenute sulla tecnologia nucleare, questa diciamo, attività è fatta salva e quindi sarà un'attività diciamo industriale, anche se diciamo non strettamente legata alla produzione di energia nucleare in Italia, però è un problema che deve essere risolto e quindi con tecnologie, con ricerca e quant'altro. Anche perché le scorie nucleari provengono anche dagli ospedali, dove il nucleare salva la vita a molte persone. Assolutamente, c'è la parte, chiamiamola industriale, che deriva appunto dal decommissioning dei vecchi impianti nucleari in Italia, ma c'è appunto anche la parte relativa alla produzione di rifiuti dal mondo sanitario, che assolutamente richiede poi diciamo, delle tecniche che esistono di smaltimento. Questa, ripeto, è una parte industriale che continuerà a esistere. Per quanto riguarda diciamo, il ruolo e la funzione dell'Associazione Italiana Nucleare, pur essendo stata fatta in un contesto di emotività generale, questa scelta per il momento di rinunciare alla tecnologia nucleare, in particolare quindi di avere come componente importante del portafoglio produttivo di energia elettrica in Italia, resta il fatto che esiste un mondo della ricerca che è giusto che continui diciamo, a lavorare su queste tecnologie. Sarebbe anche assurdo non sostenere diciamo, questa attività. Esiste un mondo della formazione da parte diciamo, dell'università, e anche quello, anche se palesemente c'è stata una diminuzione, o perlomeno ci sono segnali abbastanza precisi di riduzione di interesse da parte degli studenti per questa disciplina. Esiste anche un mondo industriale, non dobbiamo dimenticare, in Italia esistono un numero non trascurabile di imprese che già lavoravano prima come fornitori per la tecnologia nucleare e che è giusto ed è assolutamente nell'interesse del paese che continuino a farlo, visto che il nucleare, se in Italia avrà una battuta d'arresto, ciò non avviene in molti altri paesi europei e diciamo nel mondo. Questo anche. Beh, però molti paesi europei, la stessa Svizzera, la Germania, hanno deciso una moratoria e di non costruire più nuove centrali, quindi c'è un po' un'attesa abbastanza a lungo termine, se si prevede, per la costruzione di nuove centrali, in attesa forse di un nucleare sicuramente sicuro. Ecco, è un obiettivo possibile questo di una centrale sicuramente sicura, scusiamo la ripetizione. Ma diciamo che con i progetti che erano previsti in Italia, cioè la cosiddetta terza generazione avanzata, questo diciamo livello di sicurezza intrinseca era ed è garantito, tant'è che se gli impianti, tanto per fare un esempio concreto, in Giappone fossero stati diciamo di terza generazione, anche con lo tsunami che è venuto non sarebbe avvenuto quello che poi di fatto è successo. Ecco, ma quello che ha sorpreso è che proprio i giapponesi, che sono descritti come perfetti, affidabili, competenti, capaci appunto di una gestione della qualità anche a livelli massimi, poi sia successo quello che è successo. Indubbiamente gli elementi sono scatenati in maniera molto sfavorevole, però di fatto è successo qualcosa che non era nel novero delle cose impossibili da prevedere. Quindi dal Giappone forse ha colpito di più che il Giappone fosse. Quello è vero, nello stesso tempo però vorrei sottolineare sottolineare che gli impianti nucleari quali tali, cioè il reattore vero e proprio, nonostante l'evento che è successo, nonostante le cosiddette esplosioni avvenute, il riscaldamento degli alimenti e le difficoltà per riportare sotto controllo la situazione, diciamo, non hanno evidenziato quali tali delle carenze dal punto di vista della sicurezza. Diciamo, è il sistema, mi lasci dire, accessorio al funzionamento dell'impianto nucleare, cioè l'alimentazione di riserva famosa che doveva tenere in servizio pompe di circolazione dell'acqua per tenere la temperatura a un livello corretto, che è, diciamo, floppato. Ecco, ha smesso di funzionare nel quindi, momento. Ecco, è importante tra l'altro distinguere questo, e sicuramente, diciamo, la lezione del Giappone è stata assolutamente molto, molto importante, e come tutti sappiamo, diciamo, ha messo anche in moto questa procedura dei cosiddetti stress test di verifica che stanno per essere già completati in alcuni paesi e che sicuramente porteranno ad interventi su impianti in esercizio. Tutto ciò detto, però, vorrei sottolineare che nonostante il Giappone, nonostante, diciamo, la scelta della Germania di abbandonare la tecnologia con, diciamo, l'impatto di maggiori costi che comunque oggettivamente sta sostenendo e che poi saranno di fatto pagati dai consumatori di energia elettrica tedeschi, nel resto del mondo, diciamo, i progetti, anche una recente dichiarazione della IEA su questo tema, nel resto del mondo, in particolare nel mondo BRICS, cioè Brasile, India e Cina, c'è un programma di sviluppo veramente molto significativo. E comunque insisto nel dire che anche per l'Italia penso che ci possano essere delle opportunità per l'industria del settore manifatturiero, che già lavorano, che sono qualificate sulla produzione di questi componenti, queste parti di impianto, di partecipare, come sarebbe stato se diciamo il programma italiano fosse, diciamo, decollato. Quindi la possibilità per l'industria italiana di partecipare a progetti in altri paesi, andare a costruire, sì, centrali nucleari, o fornire parti, impianti, componenti, come già sta avvenendo, come avveniva ancora prima del referendum sul nucleare. Quindi anche magari avendo degli scambi di energia, forse non con centrali brasiliane, ma con centrali realizzate più vicine. Gli scambi di energia di fatto è qualcosa di storico che fa parte dei cromosomi del sistema italiano, nel senso che, come tutti sappiamo, l'Italia da anni importa 50-60 miliardi di kilowattora che sono fondamentalmente originati da impianti nucleari, come molto spesso ce lo si dimentica, e appunto personalmente all'epoca me ne occupavo proprio della contrattualizzazione di questa importazione di energia, che di fatto contribuiscono alla sicurezza di approvvigionamento del paese, e che se domani dovessero, diciamo, mancare, certo, pur in un contesto di recessione, di calo dei consumi come quello che stiamo vivendo, porterebbe dei grossi problemi alla sicurezza del sistema. Sì, certo, il consumatore quando attacca la spina per accendere una lampada o un televisore non sa che l'energia viene da una centrale. Ecco, in questa prospettiva, proprio parlando del futuro, quale può essere uno scenario possibile a 20 anni? Lei pensa che si possa trovare un nuovo equilibrio tra le diverse fonti di energia? Ma per l'Italia è assolutamente indispensabile la diversificazione delle fonti di energia, perché come tutti sappiamo le fonti, a parte l'idroelettrico storico, certo, le fonti interne non esistono, o quantomeno, diciamo, sono, diciamo, marginali. E quindi il concetto della diversificazione ai fini della sicurezza, della stabilità dei costi di produzione, perché ricordiamoci che il nucleare ha un costo di produzione che è legato sostanzialmente all'investimento, quindi non alla materia prima energia fossile, quindi quale tale garantisce anche una stabilità nel tempo che ha un valore consistente. La necessità di avere questa diversificazione, diciamo, per l'Italia c'è. Io auspico maggiore impegno sulla ricerca, anche sulla possibilità di trasferire informazione e conoscenza corretta sul tema della sicurezza e della rete protezione, in particolare anche, diciamo, gli italiani possano al momento opportuno cambiare idea. Ecco, in 30 secondi, proprio per concludere, quale secondo lei la priorità a breve termine, lasciamo poi a lungo termine tutte le cose possono evolvere e probabilmente anche ritornare a parlare di nucleare, ma a breve termine cosa dovrebbe fare l'Italia per mettere in sicurezza il proprio approvvigionamento energetico? Ma a breve termine fine, nonostante sia grande attesa per la strategia energetica del paese annunciata dal governo, io penso che concretamente non ci siano alternative a mantenere un impiego del gas naturale come fonte energia primaria per produrre energia elettrica, allo sviluppo delle rinnovabili e all'efficienza energetica. Non abbiamo molte altre chance. Ecco, un kilowattore risparmiato è come un kilowattore prodotto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie all'ingegnere Enzo Gatta, presidente dell'Associazione Italiana Nucleare. Abbiamo parlato dei temi dell'energia che devono interessare tutti, perché sono la nostra vita quotidiana e il nostro futuro. Grazie a quanti ci hanno seguito, vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica ancora a tutti.